Che ti dia che stai sai io? E non sei ancora di girendi, eh? Dopo mangiare il ritornato. Chi è lui? Gian Maria. E te va il denaro! E lui? Perché cazzo non te lo sento lui? Beppa! Adesso? Eia! E lui? Oh Lu! Luca! Non ti sente Peppa! Dimmi! Oh Lu, mi senti adesso? E Lu! Ti ascolto bene, dai! Sono qua, cos'è questa zona? Sembra fatto comunale! Fatto comunale, quasi mi sono portato a comunale! E lui? Ma hai già fatto la... la salita l'hai già fatta? Sì, ho fatto con la salita in discesa, sì. Luca la checca! Luca! Io mi! Senta sole! Ah, mi ascolti! Ui, ui! Gianmarì! Ma acqua tu ne hai? Eia! E va, e qua non ce n'è! Aspetta, Gianmarico! Gianmarì! Non c'è acqua nei rubinetti! Non ti sento! Sono con la maschera! Luca, buon pugno! Cagufo! Sto ferma, Luca! Sto ferma! Non ce n'è, no! Oh, boh! Cazzo, oggi l'ha inzarrata, Brooke, boh! Perché stare? E dalle tre l'hanno chiusa, maledetti! Tu te le inzarrà a te, invece sarà a leva! Ah, Luca, checca! E lui? Tu pute le inzarrà a te, invece sarà a leva! Ah, te a mamone devi venire inzarrà! A mamone o a mammone? Tu eri a mamone 20 anni a bancali! A te 30 anni a cosa? Niente, la su caccia! No, la su... A te a Regina Celi devi venire inzarrà! Vabbè, già capito, sì! In mezzo a tutti i ricchi! Parlate bene! Parlate bene! In mezzo a quei maschioni! Ah, sta bello! Ieri tu non c'eri, già mai c'era Pomponio, Marco! Ce l'avamo, boh! È vero! Poi Luca con Pomponio dovevano fare gli elettricisti. Si dovevano trovare per fare gli elettricisti. Esci! Ho fatto l'allaccio! Come sai? E io! Ciao Mari! Vabbè dai, ci sentiamo quando arrivi, lui sta facendo roba in sala, ciao! E io! Magnetica. Perché tu dovevi montarla come te l'ho data io? Dove la ringhiera? Hai detto mettere la ringhiera? Sì, io te l'ho data, io l'ho tarata come alla ringhiera, non con la calamita. Capito? Tu così la dovevi mettere, basta. Vabbè, non c'è acqua, vabbè, se n'è andata l'acqua. Perché c'era lì una, come si dice, diciamo dove c'era la chiesa prima, dove c'era la fermata della metropolitana, c'era una banova che stava riparando un tubo. Una su tre se ne faccia una voce. Ma dimmi tu se oggi è di Sarajevo, chi di vecchia? Speriamo che la riaprano subito. Domani la visita c'è. Domani devo, cazzo, mi devo lavare tutto quanto perché c'è la visita, che non è che ti visitano, però sai, comunque sia, devi andare, mi devo lavare. Vabbè, noi già ce la facciamo tutti i giorni, io domani mattina me la faccio a casa, stanotte no. Se io arrivo adesso a casa c'è sicuramente, non sono sicuro. Se vado più tardi no. Vabbè, domani mattina me la voglio. Eia, speriamo che torni presto. Ellu! Stavo parlando con Leoncino da campagna. Oh! Secondo me il metodo non lo sentivo più. E bisogna fare una mini Grand Prix come questa qui. Vabbè. Allora mi spieghi, quando arrivo al pezzo. Eia. Perché ci vogliono, capito, gli adattatori. Va bene, gli adattatori. Perché io, vabbè, sono uscito a BMC, poi, perché ce li avevo già in casa, così che... Vabbè. Allora, ci vorrebbe un maschio, giusto, per farlo? Sì, praticamente sì, esatto. Maschio. È un barilotto maschio che poi vai a attaccare all'S 839, dove poi appunto è l'antenna praticamente. Infatti, quello è. Vabbè, già lo troviamo il sistema. È un po' bruttino, ingombrante, però in casa, ma secondo me devi andare è comodo, capito? Vabbè, interessante che funzioni appunto, se ingombrante. Se alla fine non è che sia così grande. Sono 4 radialini da 16 centimetri, capisci, più il verticale. Aspetta un attimo, Lu. Sì. Dai, fai, sto guardando quei raccordi che ci servono là. Dai, sto guardando quei raccordi che ci servono fuori là, martedì. Lu! Ciao, Marini! Le deniettrici a batteria. 99,90 toga. Allora applicami, ce n'è da 99 euro, poi la Bosch 5,39 e la Stanley 2,99. È vero, batteria. Vabbè, poi ci sono quella elettrica, la piscaccina 12,90, 33,54. No, quella batteria è molto utile. C'è anche lì da all'indici che hanno aperto il nuovo lì a Bretagna, cosa di fronte a Fabra. È vero. Ehi, Lu. Anche 27 sono? Sì. No, non mi interessa. Sto guardando la TV. Sì, sta arrivando l'acqua. Sta arrivando l'acqua? Sì, così mi faccio un bel BD. Ci vedi com'è, fammi il BD. Dai. No, io devo stare... Vabbè. Faccio stare. Ma ti ho mandato una cosa in diretta. Sentitela l'altro giorno. Cosa, Lu? Quella cosa in diretta che ti ho mandato, l'ho sentita, l'hai? No. No, già l'hai sentita. E quale, boh? Mi sembra l'altro ieri. Guardati nel telefono. denaro tutti, veglia. Ah, ma dove sono lo attendi più, boh? La vai a buccio, ma non tu. E quale? Questa è camera da letto. Ma si accende più. Eh? Ma non schiaccio il portante, non si accende più. E lui? Luca, che c'è? Luca, che c'è? Luca, che c'è? Io? A me? Beh, bisogna di sì. No, ci ho chiamato anche poco fa e non mi ha risposto. Poi ho dovuto smontare questo mic perché c'era la portante e non andava in trasmissione. Adesso c'è il gomino messo male. L'ho pulito e sembra che stia andando bene. Basta non sputarci dentro. No, è proprio perché l'ho sputato che sta andando bene, sennò... Allora, apposta che te lo sputo anch'io. No, tu sei un brutto culo. Conosce Luca Aghecca? Luca Aghecca! Lo senti da casa tua? No, prima ce lo sentivo. Prova a vedere se sta parlando. No, non c'è adesso. Non c'è, non ha risposto. Attento, Luca Aghecca. No, ma ce l'ho sentito comunque la volta scorsa. Non di segnale, di radio. Sono riuscito a capirlo, dai. Non era fortissimo, però... Già arrivava. Non so se sono in 27, boh. Sì, sono lì. Poc'anzi erano lì per lo Adesso, vabbè, ho abbassato il volume perché stavo facendo un documento per Gabriele, ma non lo accetta. Cosa stavi facendo? Un documento per la scuola, capito? Solo che non accettava la password. Mi diceva 980, lo mettevo la password e si cancellava l'utente, capito? Così via. Voglio avere la password? La password lo mettevo, però non me la selezionava. Non è che hai messo qualche maiuscola per caso durante la registrazione, sai, o un numero? No, è una password che devi fare al momento. Non te l'accetta perché non va bene, è troppo corta, capito, te vuole così lì, prova a cambiarla, boh. Sì, ne ho fatto di tutte le maniere, anche con le doppie. Ci puoi mettere nome e cognome attaccato e la data di nascita. No, l'utente sì, va bene, la password l'ho fatta con i numeri. Ah, proprio la password, molte password vogliono anche, capito, le lettere. Metti nome, cognome e data di nascita, sai che te l'accetta. Adesso provo a farlo, dai. Sì, perché vogliono anche numeri, capito, un determinato numero di parole, di via. Stai passando, vedo. Sì, perché vogliono numeri, lettere, capito. Cracca! Va bene, comunque, questa qua me la metto. Il mio attore è Tino. Esatto. Adesso provo a mettere... Tino! Cazzo, aspetta. Luca, parla. 1, 2, 3, 30, 40, 50. No, non lo sento, non arriva qua. Sì, no, non lo sento, Luca. È un pezzo, aspetta un attimino. Prova, Lu. No, non fa neanche quello. Lo sento a tratti, Lu. Per andare... A tratti ti sente, Tino. La password mi sparisce. E mi dici, Tino, mi senti? È acceso. Stava parlando, Lu, aspetta. Sì, no, vieni avanti per Luca. Io che non posso fare, hai capito? Vieni avanti per Luca. Cosa? Vieni per Luca. Perché non mi senti, Luca? Lugas. Non ti sente, deve essere. Aspetta che vado diretto. E piove. Lu, aspetta un attimino, se lo dovessi sentire, addio. Luca. Adesso ti ho ascoltato, Tino. Mi hai ascoltato ora? Mi senti, T? Sì, ora io ti ascolto, e tu? Sei un po' disturbato, ma ti sento, dai. Anch'io, dipende da dove sei, io ora sono diretto a te, ma... Adesso ti ho ascoltato benissimo, dai, mi ascolti? Eia, cosa sei, con l'antennino? Sì, gommino. Per quello. Senti un po', quanto mi viene a costare un cambio di vetro dell'iPhone 5? iPhone 5, butti, non lo so, devo vedere i prezzi, non lo so. Guarda che poi fanno sapere. iPhone 5 o 5S? Sì. Quale? 5 o 5S? Cazzo, come faccio a saperlo, boh? Di che colore è? Nero. Come fa a saperlo? Si vede l'iPhone 5 o 5S? Lo so, fai un... così, io dico una quarantina di euro, forse pure 50. Ah no, capito, deve rimanere così, là. Io ti cambio il display e non conviene cambiare vetrino solo, eh. Alla fine non conviene, conviene cambiare tutto, perché sono assemblati. Sono un filetto di coso che c'è, mi è segnato appena, che se lo guardi frontale neanche si vede, ti puoi immaginare. Lo so, ascolta, prova ad andare in via del filo, lì ti prendono una trentina di euro, mi sa, cambiare il vetro. Vabbè, era giusto il titolo informativo. Eia. Beh, tu Luo, come mi senti invece qua? Bene, bene. Très bien. Sono con la... Come l'hai fatto tu? Sì, a Puglia, io sono sempre col portatile in sala. Con quello infatti ascolto meglio. Anche di segnale. E Lu! Va bene, vedi che riesco a prendere anche a Luca. Un po' di meno, però riesco a andarci bene. E beh, Lu, quanto ti dura la batteria usandolo? Mi senti adesso, sì? Sì, sempre. E Lu? Invece Luca si è spostato, non lo sento più. Se però metti Luca 1, Luca 2, attenzione. Ah, uno è Luca a checca. Io dovevo uscire con Pomponio e dovevamo fare gli elettricisti. Avvio, crocco. Sedete negli ultimi. Pomponio li doveva fare là, ci ha detto. Risate di ieri, ci dovevi solo essere. E dove? Qui in PMR, c'eravamo io, Marco, Pomponio e Luca. Secondo Fiorella, Luca che fa? Passa di carambola con tre auto, coinvolto due feriti a Sant'Orso, ma mio, un neopatentato. A Sant'Orso l'incidente? Ma oggi? Sulla Nuova Sardegna, quindi ieri. Boh, non lo so perché non la compro. Guardo su internet, c'è sei notizie, quella roba lì. Ma neanche io, l'ho visto adesso. E Lu? Tuo padre la prende se non sbaglio, vero ti? Non ho capito. Tuo padre se non sbaglio la compra. Ah, sì. La compra. Eia. Luca la checca, attento Luca la checca. Ascolta, ma cosa devi fare sabato prossimo? No, venerdì. Ninzo, ancora Ninzo. Se volevi venire a tagliare un po' di carne e a mangiare lì. Un po' finisce male, lo so, mi conosco. Poi facciamo una coltellate. La siciliana, lo so. Vabbè, allora vado io. No, sono su 23 loro. Che ti dà portante? Devo andare là a fare la metà di quello coso, capito? Se volevi venire. No, non ne ho voglia, nessuno ha voglia. Ma non avete detto che lo facevano loro? O no, ho capito male io. No, vabbè, dava la mano. Beh, lui lo prepara e poi tutta l'attrezzatura è la sua, non c'è problema, si è fatto conto assieme. Così avevo capito io. C'è solo da investire, perché giustamente uno è pratico. Avevo capito che c'era solo da investire e lui preparava tutto. Diciamo che sono andato a dare una mano a cosa, a San Antonio, e adesso lui parla da me e vabbè, però voglio dire, si mangia lì tutto quanto, era per fare una giornata diversa. Vedi che ti stai preparando i salumi per Natale, ho capito. I prosciutti? No, non me ne faccio prosciutti, se no non esce la pizza. scusa. Ah, caspita. Un bel prosciutto crudo, beh. Almeno. Beh, oh, una cuccia ne togli un bemmi. Non ti credere che... da una cuccia fa che ne togli 30 kg, forse anche qualcosa di più. Poi prima di consumarlo, il crudo deve aspettare almeno quei 2 anni, purtroppo. Per essere proprio... Sì. Vabbè. Ok. E poi... Bah, cosa ti volevo dire? No, me la metto più. Ma è stagionale, dove li metti? È stagionale, appese qua. E dove li appese dopo? Un po' fuori all'aria, poi... Il problema è se riesco a affumicarla, sennò volevo uscire senza. È una sorta di affumicatura, non la puoi fare? E dove la faccio lui? Quello è. È che non ho maniera di avere dei cavalletti qua in campagna e fare una sorta di punteggio, hai capito cosa voglio fare? E chiuderlo. Ah, sì, ho capito. Perché c'è quello là, in via Sosso, quello a fare quel cavalletto là. No, non per quello non c'entra niente. Un altro, chiudere tutto per poter non far uscire il fumo, capito? Ah, fare proprio sì, ho capito. Vabbè, se no rimane senza essere affumicata. Infatti bisogna fare una cosa piccola al limite, no? Non la puoi fare solo quando accendi per affumicare. No, prima avevo la lamiera libera e lo facevamo lì, però adesso è un po' difficoltoso farlo lì. Neanche dove c'è la legnaia si può fare, perché c'è tutta la legna settata. Infatti bruciamo tutto lì, così almeno. Mi stavo dicendo, Graziano, stanno lasciando un po' di legna lì anche, dove è lui. Graziano. Buffo. Proprio quando è ieri, l'altro ieri, ho visto un tronco. Sarà un metro e mezzo per un metro di diametro sarà, credo. Ma di ganna. È bello, è buttato lì sotto il portico. Luca la gecca. Igliu. Mi guardo io, Emi, in frequenza. Cosa, Lu? Ma Giudizio, guarda, mi guardo io. Noi non abbiamo 5 alberi. E chi è? Fabrizio. Ah? Fabrizio, è scivolato i dossi. Ah, mascherato. Ho mascherato però. Ah, Antonio Nucchi. Ah, Lu, Antonio Nucchi. Ma io ho caricato le batterie però. Pino! Lui! Ricordati, io c'ho una buttata di pane qua. Sto chiamando, ne sei andato, Sì, perché sono andato a farmi prestare 2 panini dalla mia vicina. Non ho sentito, Lu. Mettiti in posizione tattica. Che sono andato alla mia vicina a farmi prestare 2 panini. A farti prestare 2 panini? Un panettiere che si fa prestare 2 panini, guarda. Questa vuole scritta su Facebook. Adesso la scrivo. Adesso la scrivo, la faccio sapere a tutti. E adesso vado a cenare, che adesso è già pronto tutto. Vai, io mangio più tardi. Via, d'accordo, a dopo. Via, ciao. Luca, che cazzo? Hai già mangiato, Sì, poca roba. Un pezzo di pasta al forno e un paio di mandarini, Sto guardando Marchino Divergente. I pesci che prende, Non come te, no. E cosa, Tino? Luca, stavo dicendo, sto guardando un video dei barchini divergenti della pesca che si usa in spiaggia, no? Però devi camminare. E lui non vuole fare mai niente. Ma cosa ne comprendi, Tu comprendi solo di cane a pesca, Luca la ghecca! Ehi! Beh, grazie! Lo metti là! Cosa buona? Vai, cuocomani! Di capra! Io ho già cenato, io me ne sto andando a casa. Oh, non lo so. Andiamo a casa mia adesso. Porto la bestiolina fuori un attimo, poi aspetto alle 9:30 a fare la puntura a mamma e poi mi si cucco. Vabbè, domani. No, domani devo andare a fare un lavoro. E ho qualcosina da fare comunque, dai, a casa. Meglio questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, questi qua, poi l'ho cambiato anche l'hard disk perché quello che c'era sotto e anche per quello che era lento, era rumoroso anche. Perciò gli ho messo hard disk e RAM. Ma tu che l'hai sempre preso il motore dell'armadio? Ma me la guardate di questi figari. Beh certo, ma perché gli ha preso su di questo tipo? Cazzo misura, a parte che gli ha messo di nuovo il sistema vecchio. E poi vabbè, c'era qualche danno, c'era, non era grave, però già c'era un po' di danno, dai. Guarda se senti a Tino. Tino? Sì, a me già mi ascolti. No, non era Tino, la zona non sente. Addirittura non mi sente, aspetta un attimino, che sono basso. Grazie, ma mi ascolti? Grazie. Grazie, ti sta chiamando Tino. Non l'ho sentito in via, prova adesso. Allora se te ne si male di antenna, in questo punto non lo sento, perché sto chiudendo l'acqua che è arrivata, capito? Sono in veranda, Luca. Tino, tu lo senti? Lo sento in mezzo al QRM, ma ho messo l'altro, il grande, non mi ascoltavo con quello, mi sono male di antenna forte. Io già ti ascolto, dai, non c'è problema. Sono in veranda che sto chiudendo l'acqua che è arrivata e dunque sto staccando l'autoclave. Ah, ok. Magari da qui non lo sento. Vabbè, ciao Luca. Ciao, grazie, dai. Ciao Tino, se mi stai ascoltando io vado a casa adesso, dai. Tanto sicuramente dopo non mi sentirai. Alla prossima, ciao. Ciao Gu. Ciao Luca. Ciao. Ehi, Tino, ti saluta Guffo. Ehi, ciao, ciao. Adesso da qui ti sento, Tino. Ciao. Ma mi senti ora? È la veranda. Sto staccando l'autoclub. Da qua non c'è la pista. Ok, ciao. Ehi, ciao, ciao. Luca Falcone. Pompone. Luca Racchetta. Tu non lo sai. Luca Falcone. Bueno, questa non è. Inno, sei preciso. Ma come la bambina di così dall'altra? Sì, è vero, però non però c'è il polo. E la mia cassa d'arenda. C'è un appunto polo. Anche se mi viene a casa d'arenda, ti fa la faccia. E io? Mi a casa sto andando. Sto andando a casa tua? Sì, subito da te. Un bello freddo, oh yeah. Ma guarda, ti posso dire, non ce n'è freddo. Non ce n'è, non è aria fredda, ghiacciata, la fritta. Forse perché mi sono fatto... No, perché mi sono fatto... Ora, me ne sono portata stamattina quando sono uscita di casa. C'era l'aria fredda che c'era. Che è vero, che? Si sono modulate, però. Ma è da sempre, sempre uno in mezzo, capito? Io stavo dicendo... C'è l'aria... Non è fredda l'aria. Sicuramente forse perché mi sono fatto la luce a bollente, forse per quello, boh. Può darsi. Ma oggi in effetti la stufa non stava saldando bene, ma neanche dal vicino, da sempre. quando c'è questo vento qua. Già lo so. Comunque dai, non è fredda la giornata. Ma possiamo andare a farci il bagno al mare? Mi senti Lu? Via. Io no a te. Sì, perché ho messo un antennino piccolino. Tipo supporto. Stavo guardando ma non si guarnita. Vabbè, te la usi come supposta. Sono più qua la polizia al Pime. Non c'è la polizia al Pime? No, non ce ne sono più pattuglie. Oh. Ehi, io. Ehi, Lu. Ah, se te pongo la frantenna. Sì, non si fa niente. Ma, per carità, non arrivi neanche qua. Guarda adesso con la mini Grand Prix con due soli radialini. Adesso sono qua all'agraria, sono fisso. Io. Luca Gufo. Vabbè, mi ascolti? E Lu. Ehi, va bene Lu. Beh, con questa antenna bene. Che hai per caso? Luca. E Lu. Ho detto, hai catene da nebra per prestarmi. Devo scendere la Olbia, giovedì. No. No, perché la neve c'è là? C'è l'obbligo di cadere a bordo comunque, dopo Olbia. No. Che dattino se ce li hanno? Prima di te, sono quasi un lì, mi servono e basta. Perché se mi trovo c'è una multa. Chi te la può dare? Beh, sto pensando a chi te la può dare. Ma te sto chiedendo, che è piccola, no? Prendi da brico, ma quattro catene e un lucchetto. È vero! Si può riabbisolare come lucchetto. Ehi, intanto ci passa tranquillamente. Cosa devi fare? Marchette a Olbia? Sì, ci vieni? Ci sono già stato. Sei già stata, non stato. Via. Sì, Lu. Tu eri cara o barata? Tutto rotto. Rotto eri? E un po' di clienti c'ho lì. È vero. No. Io dovevo mettere in strada lì, via. No, devo scendere la Olbia a prendere un caffè. Ah, è una brioche. Dai, sei arrivato? Qua, di sei blu. Ah, ma io sono sempre in sala. A parte la butti. Sveglia sempre. Neanche io, dai, va bello. Bene. Sì, con l'altro non mi senti. Come? E te la do, te la provi tu quella, ti ho mandato la foto di quell'altra che stavo usando prima. Forza. E Lu. Sono da conto che ci siamo qui. Per un attimo, mi hanno chiamato. Io invece la uso porta. Oh, Lu, mi senti? Luca.